Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria che si legano in un parte anche a quanto sta avvenendo, lo dico per dovere anche di scuderia, quanto sta avvenendo in questi minuti nella Sala Collina qui a Sole 24 Ore, dove c'è, in occasione dei 10 anni di un programma di Radio 24 che si chiama Storiacce, molti di voi lo conoscono, condotto da Raffaella Calandra, stanno dibattendo di giustizia. Ne parlo perché i temi toccati riguardano anche la web tax, quindi la tassazione dei grandi gruppi, tema di cui ci stiamo occupando da settimane, e dei grandi gruppi del mondo, diciamo, della rete, e quindi come tassare questi gruppi al di là delle decisioni prese da Bruxelles, di cui ne stiamo discutendo. Il procuratore capo di Milano Greco, il procuratore capo di Roma Pignatone, assieme al procuratore Prestipino, Ilda Boccassini, sui reati anche di carattere finanziario, e il ministro alla giustizia Orlando. Ascolteremo, e lo cito, anche un passaggio che ha realizzato poco fa il procuratore di Milano Francesco Greco, proprio sulla possibilità di intercettare i ricavi, tassare i ricavi fatti dai grandi gruppi multimediali. I grandi gruppi, mi riferisco, ne abbiamo parlato in queste settimane, Apple, Amazon, eBay, andiamo avanti, Google, Airbnb, WhatsApp, anche perché, fra poco lo ascolteremo, Greco ha fatto un ragionamento, a mio avviso, ineccepibile, e cioè non è solo un problema di elusione fiscale, è un problema di redistribuzione anche del reddito. Il mondo cambia, interi settori scompaiono o professioni scompaiono. Se lo Stato non riesce a recuperare delle risorse da questi giganti che utilizzano la rete che tutti gli italiani hanno pagato e costruito, mi riferisco alla rete infrastrutturale digitale, la utilizzano ma non la pagano, e pagano anche pochissime tasse in questo paese, il problema non è solo di una corretta tassazione ma anche di ridistribuzione delle risorse, visto che proprio l'innovazione portata da questi gruppi sta facendo scomparire alcune professioni. Quindi tu hai dei disoccupati come conseguenza della rivoluzione digitale. Se almeno i grandi alfieri di questa rivoluzione pagassero le tasse correttamente in questo paese, avresti la possibilità, come Stato, di utilizzare quelle risorse per ammortizzatori sociali e welfare. Di questo parleremo, perché lo faremo anche in occasione di un appuntamento importantissimo sul tema del digitale, quindi Ernst Young, il Digital Summit, che è in corso a Capri e che ieri ha visto anche la partecipazione del ministro Madia. Per quello che riguarda invece gli altri temi di carattere più finanziario, resta tutto il tema delle banche. Oggi Milano, così vengo alla borsa, è in rialzo dello 0,40%, Parigi più 0,20%, Francoforte meno 0,1%, Londra più 0,40%, Dow Jones più 0,17%. Soffro ancora per alcune banche, mi riferisco soprattutto a UBI che perde il 2,16%, BPER l'1,80%. In generale c'è un tentativo di un po' di recupero su UniCredit più 0,35%, Banca Generali più 0,40%, ma il tema della nuova stretta della vigilanza europea sui crediti deteriorati spaventa molto Milano, e intesa come borsa, e spaventa molto l'Italia, perché sappiamo che, per quanto leggermente in calo, la quota di NPL, cioè di sofferenze bancarie in pancia alle banche italiane, è ancora alta, e ne parleremo per quello che riguarda l'approfondimento. 349-238-666 per SMS e WhatsApp. Altro tema, non lo voglio dimenticare, il rapporto dell'OCSE, che già è stato ricordato dai nostri GR24, quello sulla strategia per le competenze, dove dice sostanzialmente: allora, negli ultimi anni il governo italiano ha messo in atto delle misure di riforme strutturali, compreso il Jobs Act, che mirano ad affrontare le sfide sulla disoccupazione e anche sull'occupazione. Si sono creati 850.000 posti di lavoro da quando queste riforme sono state adottate, e il numero dei nuovi contratti a tempo indeterminato è aumentato, anche se poi noi sappiamo che negli ultimi mesi sta rallentando in maniera significativa. Chiede l'OCSE di abbassare in via stabile i contributi sul lavoro, e quindi il cuneo fiscale ridurlo, quanto costa un dipendente rispetto a quanto dipendente ha in busta paga, chiede di spostare il peso delle tasse verso l'ambiente, e quindi tasse ambientali, tasse su proprietà e o consumo, e migliorare la lotta all'evasione. E poi dice, attenzione, in Italia i salari sono più legati all'età che alle competenze. E questo viene chiamato anche trappola della bassa competenza. E soprattutto dice, attenzione, da un bilancio molto molto duro sulla nostra politica, diciamo, educativa, dice, solo il 20% degli italiani tra i 25 e i 34 anni è laureato, rispetto a una media dell'OCSE del 30%, pochi laureati, poco preparati e bistrattati quando sono bravi, perché ed è l'unico paese del G7 in cui la quota di lavoratori laureati in posti con mansioni di routine, cioè dove non necessiti fortemente o necessariamente di una laurea, è il più alto nei paesi dei G7, divario tra studenti al sud un anno indietro, ne parleremo, e appunto bistrattati, nel senso che quando sono bravi devono andare, scusatemi, all'estero. 349-238-6666 per sms e whatsapp, dicevo, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24 e poi come sempre la diretta su Facebook. Allora, andiamo con le notizie in breve per quello che riguarda la giornata economico-finanziaria. Scusate la brutta qualità della voce, ma ne uscirò anch'io. La Catalogna, la seguiremo, prepara lo strappo, Puigdemont pronto al carcere. Cercheremo di affrontare, se riusciamo, nei prossimi giorni anche le possibili conseguenze di un'indipendenza che è tutta da verificare, ma le conseguenze economiche, cioè banalmente non voglio entrare nel tema, giusto che la Catalogna chieda l'indipendenza, giusto la relazione di Madrid, ma tu non puoi fare un'indipendenza che non ti viene riconosciuta dall'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea, la valuta che adotti qual è? Nel senso che senza il riconoscimento delle istituzioni finanziarie non va da nessuna parte, questo deve essere abbastanza chiaro. Due commenti brevissimi dei messaggi che vedo. Nessuno ha detto che la web tax verrà utilizzata per creare occupazione in senso stretto, però che uno Stato abbia il dovere di dire, bene, c'è una rivoluzione in corso, scompaiono professioni o viene ridotta l'occupazione in alcuni settori, se ne stanno avvantaggiando i giganti del web, benissimo, che tutti noi utilizziamo, pagate le tasse per i ricavi fatturati che sviluppate. Io adesso vi vado a leggere di nuovo quanto ha pagato WhatsApp e Airbnb: 20.000 euro WhatsApp, 180.000 euro di tasse pagate l'anno scorso in Italia. Adesso vado a riprendere tutte le cose. È una cosa ridicola. Questi soldi, sì, uno Stato che continuamente a lottare con la quadratura del cerchio per evitare le clausole di salvaguardia, ne abbiamo parlato molte volte, beh, questi soldi potrebbero essere utilizzati per esempio per la decontribuzione, per esempio per altre forme di welfare, per esempio per mettere più soldi nelle politiche sulle famiglie meno abbienti. E comunque c'è anche un problema di giustizia fiscale, ma al di là di questo c'è un problema anche economico stretto. Veniamo all'Italia. Comunque le risorse appunto della manovra sono limitate, lo ha ribadito per l'ennesima volta il ministro Padoan. Serve attenzione, le riforme dell'istruzione è la strategia migliore per la crescita, in questo modo rispondendo anche in qualche modo al rapporto dell'OCSE sull'Italia. Le competenze devono essere al centro di una strategia di lungo termine per un paese maturo come l'Italia. E questo appunto è il commento che ha dato il ministro al rapporto OCSE, di cui parleremo anche dopo. La legislatura che sta finendo sta consegnando alla prossima legislatura una situazione molto migliore di quella che era stata ricevuta all'inizio di questa legislatura. Non solo per questa ragione, per fare dei bilanci, che non è il punto che volevo sollevare, ma soprattutto per pensare al futuro. Perché i risultati positivi del Paese devono essere soprattutto uno stimolo a continuare e a fare di più. Questo ce lo diciamo continuamente, lo ripeto anche adesso. E questo perché l'Italia ha particolarmente bisogno di mettere ulteriormente a fuoco una strategia di sviluppo, che concili la stabilità macroeconomica e di finanza pubblica con la crescita. E di nuovo arriviamo al capitale umano, alle skills, alle competenze. Le competenze sono al centro di una strategia di lungo termine che per un paese maturo come l'Italia, che quindi ha problemi di demografia, in cui la demografia non aiuta a crescere come in altri casi, ma ha grandi opportunità di aumento della produttività attraverso l'innovazione. La skill strategy, le skills sono un elemento fondamentale per la costruzione o per la ulteriore definizione di un programma per una prossima legislatura. Allora, ancora due notizie in breve. Una riguarda le banche, ma ripeto, sarà tema di approfondimento nella seconda ora del programma. Preoccupazione da parte del presidente dell'ABI, Patuelli, per la decisione della Banca Centrale Europea, ossia il fatto di mettere in consultazione un addendum che è definito un macigno alle ennesime regole sui crediti deteriorati. Aveva un ottimismo più rilevante fino a ieri l'altro, ha detto Patuelli. È intervenuto anche il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, da poco nominato, Pier Ferdinando Casini, che ha detto: se la nuova stretta preannunciata da BCE sui crediti deteriorati delle banche si realizzerà nei termini preannunciati, ci sarà veramente da preoccuparsi. Oggi si poteva finalmente respirare con chiari vantaggi per il mondo delle imprese e per i risparmiatori. Penso che il governo, mai come questa volta, dovrà prendere il toro per le corna. Visto che entriamo nel tema della giustizia e del rapporto tra giustizia e economia, cito il fatto che il sostituto procuratore generale della Cassazione, Nando Iacoviello, ha chiesto la riduzione delle pene per gli imputati del crack Cirio. Qualcuno se lo ricorderà, Cragnotti fu il primo a mettere in evidenza un rapporto assurdo tra le banche creditrici e i consigli che le banche stesse davano per comprare obbligazioni e prodotti Cirio, mentre nel frattempo rientravano dall'esposizione nei confronti di Cragnotti. Un'operazione assolutamente scorretta, senza se e senza ma. Facciamo intere puntate di Focus Economia su quello, poi arrivò Parmalat e poi arrivò anche il resto. Comunque, quindi l'ex patrono della Lazio Sergio Cragnotti e l'ex presidente della Banca di Roma Cesare Geronzi, condannati in appello, il primo a 8 anni e 8 mesi, il secondo a 4 anni da questo punto di vista, per cui ha chiesto di ridurre le condanne a tutti, anche se non è quantificato, è più o dovrebbe essere più sostanzioso l'alleggerimento di pena chiesto per Geronzi, per il quale sto chiesto l'annullamento senza rinvio per la vicenda Eurolat. E ancora, per quello che riguarda Tim, ne parleremo nel corso dei mercati finanziari, di cui Fontana oggi deve essere disponibile a incontrare il governo, l'ha detto da Capri, dove ci trasferiamo adesso per parlare della digitalizzazione del mondo digitale, perché c'è il Digital Summit, o Summit per dirla giustamente con i latini, che ogni anno tiene Ernst & Young. Siamo in collegamento con Donato Iacovone, amministratore delegato di Ernst & Young Italia, con cui parleremo tra un attimo. Però vorrei farvi sentire che cosa ha detto, così andiamo subito sul tema, poco fa il procuratore di Milano Francesco Greco, dicendo: attenzione, il problema è di carattere internazionale, quello della tassazione dei grandi colossi del web, così rispondo anche a alcuni ascoltatori. Va comunque ripensato il sistema internazionale di tassazione, che ancora adesso, lo chiarisco io, si basa sullo stabilimento, sull'idea di fabbrica che occupa un terreno, un luogo fisico e quindi dove produci il reddito. Noi sappiamo che con la digitalizzazione scompare molte volte il senso fisico del luogo, cioè non è che WhatsApp possa essere tassata o Google perché ha, in base allo stabilimento, ai metri quadri che occupa in un paese. Comunque, Francesco Greco. Il problema si deve risolvere a livello internazionale. Non sono così ingenuo da pensare che l'Italia da sola possa risolvere per sé questo problema. Tuttavia noi il problema ce lo siamo posti e abbiamo cercato comunque di indicare delle strade da percorrere. Noi siamo riusciti quantomeno a costringere alcuni di questi gruppi a aderire all'accertamento che era stato effettuato. Ma ovviamente sono adesioni parziali, perché parte, no, del loro fatturato, in alcuni casi la più grossa parte del loro fatturato, comunque sfugge nell'applicazione concreta delle norme che abbiamo. Ora qui bisogna capire se è possibile introdurre un nuovo concetto di stabile organizzazione che, come dire, lasci da parte lo stabilimento industriale, che ormai non c'è più, ma non c'è più neanche nell'industria normale, e varare all'interno degli attuali principi OCSE, che prevedono comunque degli elementi di fisicità evidenti, varare una nuova normativa sulla stabile. Io ne ho consigliata una, ovviamente non è che me la sono inventata io, ne ho discusso con esperti e quant'altro, che individuava essenzialmente degli elementi di fisicità. Secondo me bisogna, come dire, ragionare proprio su questo. E andiamo all'altro passaggio, quello a mio avviso di carattere più economico e anche di maggior respiro, al di là della legislazione, di come adottare la legislazione fiscale alla nuova realtà dei colossi del web. Ripeto, l'artigiano lo becchi, è lì, non gli fai pagare ogni singolo centesimo dei ricavi che ha prodotto in quel luogo fisico. Non puoi pensare di avere lo stesso tipo di atteggiamento nei confronti dei colossi che hanno uffici anche periferici, magari nei singoli paesi, ma utilizzano, ripeto, la rete infrastrutturale che gli italiani hanno pagato, diciamo, attraverso le tasse in questi anni, la rete fatta anche con contributi statali, non lasciano un euro, come se andassi in autostrada e potessi non pagare mai il pedaggio, per usare un esempio, e tra l'altro vanno a pagare dove meglio gli conviene, e oltre a questo abbiamo visto pure accordi sottobanco per pagare ancor meno di quanto dovrebbero pagare in posti in cui già si paga poco. Voglio dire, a me va bene tutto, però non è che Zuckerberg e compagnia, con quest'aria un po' da fighetta guru, poi sono assolutamente evasori ed elusori fiscali tanto quanto quelli che raccontiamo da 18 anni, visto che 18 anni che facciamo il programma. Quindi sì, tutto bello, bello mondo nuovo, paga le tasse e poi ne parliamo. Francesco Greco. Questi gruppi che, come dire, amano descriversi come il nuovo mondo, però si fondano su una totale politica di ottimizzazione fiscale, usiamo parole un po' edulcorate, in cui sostanzialmente non pagano le tasse. No? Ma direi che c'è un ulteriore punto che viene sottovalutato nell'approccio alla fiscalità internazionale, cioè che per realizzare i profitti in Italia questi gruppi usano il sistema infrastrutturale italiano. È stato creato col pagamento delle tasse dei cittadini italiani. Quindi c'è una sorta di strana situazione nella quale si usa un sistema infrastrutturale che tra l'altro adesso viene, come dire, dovrebbe essere ammodernato, si discute tanto del 5G e queste cose qua, viene ammodernato con soldi dello Stato italiano e quindi tirati fuori dai cittadini italiani con le tasse, e però, come dire, usano questo sistema, ma francamente non lasciano neanche una lira in questo paese. Ecco, non è un discorso etico, è un discorso economico, perché il nuovo mondo, che spero non si fondi sull'evasione fiscale, francamente, il nuovo mondo è un mondo che sta generando la fine di tutta una serie di situazioni economiche, cioè il terziario avanzato è destinato a morire, se non è già morto, banche, assicurazioni, uffici e quant'altro. Avremo, a mio avviso, una quota come dire, strutturale di disoccupazione, e gli stati si dovranno porre il problema di finanziare il welfare. E se non lo finanziano con le tasse e con le tasse e gli enormi profitti realizzati anche da questi gruppi, come faranno a tirare avanti? Ecco, quindi non è che stiamo parlando di etica, qui stiamo parlando di sopravvivenza, che è una cosa diversa. Beh, devo dire che È ineccepibile il ragionamento del procuratore capo di Milano Francesco Greco, cioè tu hai da un lato una rivoluzione digitale che sta distruggendo, rendendo vecchi interi settori e anche occupati, e un sistema economico che deve riadattarsi alla rivoluzione in corso. Di questa rivoluzione digitale, su questa rivoluzione digitale guadagnano soprattutto i colossi del web, che ne sono gli artefici, gli alfieri, quant'altro. Benissimo, almeno che lo Stato abbia modo di avere un prelievo fiscale che gli permetta di usare come ammortizzatori sociali quei soldi e avere un po' di cuscinetto. Ma qualcuno mi sta scrivendo: ma perché dare i soldi allo Stato che poi li spreca? Più soldi allo Stato, più parassiti. Vabbè, allora lei può essere anche contento che lo Stato non incassi quasi nulla rispetto a quanto incassa dei lavori tradizionali da questi colossi. Faccio notare che poi, quando facciamo la legge finanziaria, abbiamo solo 4 miliardi per gli statali, 1 miliardo per la decontribuzione, 1 miliardo e 2 per diciamo, gli incentivi alle imprese che investono in digitalizzazione. Beh, forse un altro miliardo sulla decontribuzione sarebbe stato utile, forse qualche centinaio di milioni in più sul reddito, diciamo, di inclusione, comunque i redditi contro la povertà sarebbero stati utili. Allora, ringrazio di nuovo Donato Iacovone, amministratore delegato di Ernst & Young Italia. Buonasera Iacovone. Buonasera, buonasera a tutti. Uniamo i vostri temi a Capri con quelli di cui stiamo dibattendo, appunto, il procuratore capo della Repubblica di Milano Francesco Greco, Giuseppe Pignatone, procuratore capo a Roma, e i procuratori aggiunti Ilda Boccassini e Michele Prestipino, alla presenza del ministro Orlando. Un brevissimo riassunto sinottico, come si diceva una volta. Allora, rapporto presentato al Senato della Repubblica, quindi non è invenzione nostra. Facebook ha incassato in Italia con la pubblicità l'anno scorso 225 milioni di euro, versa all'erario 260 mila euro. Mi sa che Iacovone, che ci mettiamo assieme io e lei, lei soprattutto che è un uomo notoriamente ricco, paghiamo più tasse di Facebook. Amazon 3 milioni, Twitter 170 mila euro, Airbnb Italia 60 mila euro di tasse pagate. TripAdvisor 20.000. Allora, la Procura di Milano, di cui avete sentito parlare Greco, è riuscita a farsi dare da Google e Apple 624 milioni per sanare la loro posizione col fisco italiano. È chiaro che la materia è di carattere internazionale. Iacovone, le faccio ascoltare anche quanto ha detto poco fa il ministro Orlando proprio sul tema, auspicando che un intervento anche a livello internazionale. Abbiamo un problema che è dovuto al fatto che gli interessi di questi grandi gruppi incidono sulle decisioni degli stati nazionali e anche dell'Unione Europea. Noi stiamo portando avanti da anni ormai il dossier data retention, che cuba, come si dice, 3 trilioni di dollari se non sbaglio, e non si riesce a chiudere perché abbiamo paesi che in qualche modo sono su posizioni totalmente nell'Unione Europea, su posizioni totalmente subalterne nei confronti di questi grandi soggetti. Oltre agli Stati Uniti, che non sono mai stati particolarmente disponibili, avendo tutte le sedi degli over the top sul proprio territorio, non sono mai stati particolarmente disponibili a costruire un meccanismo di controllo sulla gestione di questi dati. La difficoltà è, uno, costruire un ordinamento che sia sovranazionale, che funzioni, dei soggetti che siano in grado di far rispettare questo ordinamento; due, anche come dire, rompere questo tipo di resistenze. Io credo che sia una direzione verso la quale inevitabilmente si va e si andrà. Perché è del tutto evidente che il problema, oggi qualcuno può pensare che se lo scansa perché ha la sede di questa o quella società per qualche anno, ma poi non facciamo esempi l'Irlanda, ma poi alla lunga, diciamo, alla fine quello non compensa quello che complessivamente ti toglie, quello squilibrio. Penso che lo dobbiamo fare rivendicando il nostro ruolo in Europa e dicendo il più possibile Europa. Allora, Iacovone, visto che Ernst & Young è leader mondiale nei servizi di revisione, ma anche fiscalità, organizzazione contabile, advisory, e avete 210.000 dipendenti a livello globale, la sua posizione sulla tassazione, che sta diventando un tema politico, economico, di altissimo livello, dei colossi del web? Ma mi pare che insomma, il ministro abbia espresso chiaramente la posizione più di buon senso, cioè che quindi vengano, che ci sia una posizione intanto internazionale, quindi che non solo sia europea ma che possibilmente sia mondiale, sulla allocazione delle tasse secondo la provenienza dei redditi. Mi sembra che sia una posizione condivisibile. Poi ovviamente poi ci sono le leggi, ci sono gli interessi e ci sono la mediazione, insomma, che si sta provando a fare. Però mi pare che l'orientamento sia corretto, mi pare di capire anche che si stanno trovando degli aggiustamenti o comunque delle negoziazioni o delle mediazioni. E questo è un aspetto. Nel rapporto, così riutilizzo anche un po' il percorso mentale sviluppato dal procuratore Greco, il quale diceva: attenzione, questa bellissima rivoluzione, l'abbiamo raccontato molte volte, però come tutte le rivoluzioni crea anche morti e feriti, e nei settori tradizionali, nelle professioni tradizionali. Qui è inutile piangersi troppo addosso, uno deve anche prendere atto del mondo nuovo e specializzarsi in altri settori. Però voi avete fornito da Capri un rapporto che, insomma, fa tremare i polsi, perché è vero che c'è una fortissima richiesta di professionisti nell'information and communication technology, più 26%, addirittura più 90% nelle nuove professioni legate alla trasformazione digitale, gli specialisti dei big data, cioè dei numeri e dei dati che hai sulla rete. Secondo voi si potrebbero creare 85.000 posti di lavoro nei prossimi 2 anni in Italia, ma attenzione, entro il 2020 scompariranno 7.100.000 posti di lavoro nel mondo proprio per via della trasformazione digitale. Ne verranno creati 2 milioni con una perdita netta di 5 milioni. Ora chiaramente parliamo a livello mondiale, che riguarderà in parte anche l'Italia. E quindi voi dite: bisogna riposizionare queste persone. Dopo il meteo le chiedo di spiegarci come e quanto conta anche la formazione. Voi avete anche un rapporto abbastanza dettagliato sul, ahimè, l'ignoranza digitale di molti italiani. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. ...17:42 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dunque all'amministratore delegato di Ernst & Young Italia, nonché managing partner di tutta l'area mediterranea, Donato Iacovone. Al di là del ragionamento sulla web tax, la web taxation, il dato che voi avete fornito, insomma, è impressionante. 85.000 posti di lavoro che si potranno creare nei prossimi 2 anni come specializzazione in tecnologie digitali, ma 7 milioni di posti di lavoro che scompariranno da qua al 2020 a livello mondiale per via delle nuove tecnologie, ne verranno creati 2 milioni, c'è una perdita netta di 5 milioni di posti che dovranno essere riposizionati. Allora, come si fa a riposizionare le persone? Come si lega questo tema al fatto che voi avete anche certificato quanto già ci dice il Censis: 44% degli italiani non usa i servizi online, solo un lavoratore su tre ritiene di possedere le necessarie competenze digitali. Ma noi siamo a Capri con 550 aziende, abbiamo ascoltato molti di loro nei workshop e oggi anche, e c'è un filo conduttore. Il filo conduttore è che dopo aver insistito sulle infrastrutture che sono necessarie, la banda larga e tutto il resto, ma dopo aver insistito anche sui software, quindi sulle nuove tecnologie, oggi tutti sono d'accordo che quello che farà fare il salto e cogliere le opportunità del digitale sono le competenze nuove che il mercato richiede, questo nuovo mercato richiede, e queste competenze si potranno ottenere solo aumentando la collaborazione tra università e imprese, e anche tra le stesse università interdisciplinari, e poi cercando anche di cambiare tutta la formazione, lo sviluppo delle competenze dentro l'impresa. È stato un filo conduttore, cioè è cominciato da Edberg di Wind per passare a tutti quelli che sono succeduti durante la giornata. Questo è il tema. Allora, io credo che noi, non avendo tanti headquarters in Italia, per fare l'esempio prima che citavate gli headquarters negli Stati Uniti, noi potremmo perdere meno posti di lavoro di quei 7 milioni, non avendo molti lavori impiegatizi, e potremmo intercettarne un po' di più di quei 2 milioni nuovi che nasceranno. Ecco, dobbiamo essere bravi a cambiare la formazione e anche lo sviluppo delle competenze delle persone. Ecco, Iacovone, ma come si lega questo con il fatto che appunto Il 70% dei lavoratori italiani pensa che la propria impresa non disponga di personale con competenze adeguate. Il 44% degli italiani non usa i servizi online. Solo un lavoratore su tre ritiene di avere le competenze digitali necessarie. E due su italiani su tre si dichiarano digitalmente impreparati. Io però allora è vero, se noi guardiamo tutte le statistiche, dall'e-commerce, uso dell'e-payment, pagamento elettronico, a tutti gli altri indicatori digitali che voi volete, noi siamo sempre tra gli ultimi paesi in Europa. Quello che però va colto anche è che, faccio un esempio, il pagamento online, cioè elettronico, tramite telefonino, nell'ultimo anno, 2016, è aumentato del 700%. È vero che la base non era altissima, però è aumentato del 700%. E-commerce, l'uso è aumentato del 21%, cioè mi pare che noi abbiamo un gap, sicuramente siamo in ritardo, però mi pare che questo sia il momento giusto, anche perché c'è questo clima di maggiore positività in cui tutti si affacciano a nuove modalità di acquisto, di pagamento e quindi si avvicinano al mondo web e alle possibilità e alle opportunità che il web offre. Quindi, come dire, siamo in ritardo, è vero, soprattutto la piccola e media impresa è in ritardo. Industry 4.0 è stato un buono stimolo molto psicologico e culturale, ma anche sicuramente economico e finanziario. Insomma, c'è un aiuto, ma c'è anche una volontà nuova di recuperare spazi. Io credo che queste competenze di cui c'è bisogno noi le dobbiamo sviluppare, altrimenti... No, volevo solo sapere una cosa, sono d'accordo, perché lei stava già citando l'e-commerce e il commercio elettronico. Vorrei chiudere su questo, perché anche qui la domanda delle 100 pistole: l'e-commerce è un'opportunità, c'è cioè una grandissima vetrina globale per anche piccoli produttori, quindi anche e soprattutto piccoli produttori italiani, non parlo solo dell'agroalimentare, parlo di tutto, e quindi ti dà una vetrina planetaria, o è la distruzione del commercio tradizionale? Lo dico perché voi avete registrato nel 2017, vi aspettate 23 miliardi di commercio elettronico, di giro d'affari nel commercio elettronico, pur ricordando che l'Italia è indietro, siamo a due volte rispetto al 2013. Quindi è un'opportunità o è la distruzione? Allora, l'e-commerce è un'opportunità soprattutto per il modello italiano al consumo, cioè l'Italia, gli italiani stanno scegliendo un modello che si chiama multichannel, cioè iniziano sul web a informarsi su un prodotto, magari iniziano un acquisto, poi non resistono, vanno nel negozio, lo vogliono vedere, lo vogliono toccare, se è fashion, o comunque essere informati da uno col camice bianco se è un televisore. Quindi c'è questa modalità in cui non sacrifica il negozio, ma dal web va al negozio. Noi dobbiamo essere bravi a intercettarli sul web e a portarli su un negozio, e questo è un punto. Ma l'altro punto fondamentale che noi dobbiamo cogliere è che noi siamo produttori, noi abbiamo fabbriche, siamo capaci in questo paese di fare prodotti, sempre quasi in molti casi intermediati dai francesi sul fashion piuttosto che sull'alimentare ultimamente, dai tedeschi sul meccanico. Questa è un'opportunità per avvicinare la fabbrica direttamente al consumatore finale, per chi fa prodotti per il consumatore finale, ma anche alle aziende nel caso di B2B, del business to business. Quindi io credo che ci sia un'opportunità. Poi è chiaro che ci sono i rischi del digitale, quindi noi dobbiamo essere, per quello bisogna essere proattivi, investire per tempo per cogliere opportunità e non subirle, come lamentandosi di questo cambiamento che è nei fatti. Chiaro. Quindi noi dobbiamo semplicemente coglierne le opportunità. Allora, buon lavoro e grazie anche all'amministratore delegato di Ernst & Young Italia, Donato Iacovone. Interessante questo beep beep che sentivamo, digitale, ma anche che scandisce i tempi, dovremmo usarlo anche noi con gli ospiti. Grazie Iacovone, andiamo sul traffico. E poi invece un tema che nulla a che fare col digitale, ma più tradizionale non potrebbe essere: le sofferenze bancarie, che sono anche le sofferenze nostre, visto che ne parliamo ormai da anni, e sofferenze che potrebbero soffrire, così uso il gioco di parole, ancora di più dopo quanto sta decidendo la Banca Centrale Europea. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Focus Economia. Allora, vedo che molti ascoltatori dicono: casomai avviene il contrario, io prima vedo una cosa nel negozio e poi la compro su web. È vero, c'è anche questa. Adesso devo cambiare tema e parlare delle sofferenze bancarie. Una cosa la voglio dire: guardate che siamo tutti consapevoli dei rischi, in alcuni casi già concreti, già realizzatisi, della digitalizzazione dell'economia, della perdita di posti di lavoro tradizionali, della concorrenza. Il problema è che non si può andare contro i flussi storici, si può cercare di regolarli, di adattarsi, di prendere le contromisure, informarsi. Insomma, il principio della selezione naturale prevede che vinca la specie non più forte, ma quella che meglio si adatta al mutamento. Infatti, diciamo, alcuni colossi tipo Nokia, Motorola, Ericsson erano colossi e non ci sono più. Ma quindi uno deve anche adattarsi al nuovo. Poi la politica, le istituzioni, la legge, le norme servono a non dar vantaggi scorretti, vedi il caso fiscale, ma non solo, e servono anche a redistribuire, se vogliamo usare il principio delle tasse come redistribuzione una volta tanto, e via così. Però andare contro i processi in atto la vedo difficile, anche perché tutti noi li critichiamo sti colossi quando vengono a fare concorrenza in casa, vale anche per i giornalisti, ne abbiamo parlato molte volte. Però poi siamo i primi a utilizzarli quando dobbiamo andare al ristorante, quando dobbiamo andare a fare un viaggio, quando dobbiamo prenotare un aereo, no? O vedere le previsioni meteo. Quindi diciamo che questa rivoluzione è bellissima se sei da questa parte del computer. Se sei dentro il computer sono volatili per diabetici, perché sei in concorrenza con tutti. E questo è chiarissimo. Però attenzione a vedere solo la parte negativa, perché poi siamo i primi a utilizzare tutti questi strumenti, questi colossi, per il nostro agire quotidiano. Marco Ferrando, andiamo su un tema invece tradizionalissimo come le sofferenze bancarie. Perché il calo di ieri e in parte anche di oggi dei titoli bancari? Perché questa enorme preoccupazione palesata dal presidente dell'ABI Patuelli e dal neo presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sui crack bancari, Pier Ferdinando Casini? Perché ieri mattina la BCE ha pubblicato un documento che cambia le regole con cui le banche svalutano i crediti in sofferenza, dicendo che dal 2018, quindi da domani praticamente, tutte le sofferenze andranno automaticamente svalutate. Quindi non potrà ogni banca decidere come regolarsi sul bilancio, ma le sofferenze garantite, ad esempio i mutui ipotecari, andranno svalutate completamente, quindi del 100% dopo 7 anni, ma questo vuol dire che negli anni prima andranno di fatto ammortate, quindi le svalutazioni saranno fisse già negli anni precedenti, mentre le sofferenze non garantite andranno svalutate, azzerate dopo 2 anni, quindi dopo il primo del 50%. Domanda, ma è una... novità così forte, nel senso che il mondo bancario italiano è sembrato essere colto veramente alla sprovvista? Ma è una novità culturale, nel senso che ieri la BCE ha spiegato che vogliono creare una nuova cultura per le svalutazioni, diciamo che... No, ma, capito, ma di solito questi processi si anticipano, si fanno capire, non è che arrivi subito, diciamo, da domani, boom. Sì, loro in teoria vale solo per le nuove sofferenze, quindi... Quelle del 2018. Quelle che tutti i crediti che dal 1 gennaio andranno in sofferenza dopo 7 anni. Quindi, andranno... come abbiamo capito correttamente, 2018, 1 gennaio, esatto, 2018. Esatto. Diciamo che la tecnica dell'automatismo, che tra l'altro ricordiamo automatismo per tutti, quindi dalla banca portoghese alla banca belga, quindi di tutti i paesi con le loro situazioni molto diverse come cultura del credito, come qualità del credito, questo cambia completamente lo scenario, perché di fatto impedisce alle banche di regolarsi come vogliono, ma dovranno obbligatoriamente azzerare queste sofferenze. Allora, vorrei capire, ti chiedo solo un po' di pazienza, dopo il GR24, che cosa cambierà per il modello bancario italiano. Quindi, primis, non si tratta delle vecchie sofferenze bancarie, ma delle nuove. Però le persone in ascolto che magari hanno bisogno di un prestito bancario, sia come mutuo, sia perché sono imprenditori o hanno una startup, hanno un'idea da finanziare, un progetto da finanziare, vogliono capire se questo poi vorrà dire un giro di vita molto forte, ancora meno prestiti, insomma è un sistema che si riavvita. Dopo il GR24, 349-238-6666 per sms e whatsapp, riguardo alla globalizzazione e la digitalizzazione sono processi indotti, non voluti dai popoli. Ma che cavolo sta a dire? Ma se, voglio dire, Zuckerberg, Bill Gates sono nati nei garage e nelle università, era gente normale, non è, indotti da chi? Qual è il grande fratello che ha deciso di creare Facebook Twitter, Google, ma va là, cioè, ma il problema è che anche quando sono voluti dai popoli, dal popolo comunque, dalla gente normale, con 4G, poi vanno a fregare comunque altre persone, altri lavoratori, altri processi produttivi, vanno a avvantaggiare di altri. Basta con questa idea che adesso, cos'è, il Bilderberg che ha voluto Facebook, ma per favore, GR24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Marco Ferrando, molti messaggi che arrivano sul tema delle nuove regole che adotterà la BCE, imponendole, rendendole automatiche dal 1 gennaio 2018 per le sofferenze bancarie che scatteranno da allora, cioè attenzione, non vale per il passato. Qualcuno dice: potete fare degli esempi di sofferenza non garantita, di sofferenza garantita oltre i mutui ipotecari? Perché le prime non garantite si svaluteranno dopo 2 anni, cioè la banca deve mettere, se dopo 2 anni ha ancora questo credito che non riesce a riscuotere, deve metterlo a zero come valore, le altre dopo 7 anni. Tra l'altro qualcun altro mi dice: ma guardi, insomma, ma del resto Se lei avesse un credito che non riesce a riscuotere da 7 anni, che valore gli assegnerebbe? E non puoi continuare, questo rivolto alle banche, a metterlo al 40% del valore. Cioè, se uno ti deve 1.000 euro e tu hai 7 anni che non riesci ad ottenerli, o 6 anni, continuare a dire che forse ne avrai 3.500 di questi euro, di questo debito che hai, di questo credito che vanti, forse è anche irrealistico. Quindi, se possiamo dare degli esempi, e se alla fin fine non sia corretto il modo di procedere della Banca Centrale Europea. Dunque, esempi: un esempio di un credito non garantito è il credito al consumo. Quindi, ad esempio, mi compro un frigorifero, lo pago a rate, la garanzia sarebbe il frigorifero, che però si svaluta praticamente nel momento in cui me lo porto a casa, quindi un tipico esempio di credito non garantito. Oppure, che è molto diffuso nel Nord Europa, più che in Italia, e questo è uno dei motivi per cui si ritiene che questa normativa appunto sia discriminatoria. Un altro esempio più vicino alle imprese sono i crediti chirografari, che rischiano, e qui veniamo alla domanda di prima, cioè quali effetti può avere, rischiano di diventare molto più cari, perché la banca, nel momento in cui fa un credito non garantito, sa che se tu non paghi dopo 2 anni dovrà azzerarlo, e quindi te lo farà pagare di più. È come una polizza assicurativa, come se il premio, come se appunto il quoziente di rischio salisse. Per quanto riguarda il principio in sé, si può dire che sia di buon senso, nel senso che ammortare una perdita possibile è sicuramente un principio di buon senso. Il fatto è che va a incidere su un panorama molto diversificato, perché il principio è unico per tutta Europa, e quindi vuol dire che parliamo di più di 20 paesi diversi con tempi della giustizia diversi, e qui evidentemente l'Italia ha molto più da recriminare rispetto al Nord Europa, e con tipologie di credito molto diverse, per cui in Italia abbiamo molti mutui ipotecari, torno a parlare di questo perché è una categoria significativa dal punto di vista quantitativo, sia tra i privati, cioè tra i risparmiatori, quindi le case di abitazione, sia gli immobili commerciali, industriali, è il tipico esempio di un credito garantito che la banca tiene nei propri libri anche per 10, 15, 20 anni, un po' perché ha interesse a non azzerarlo, un po' perché per un'asta, per escutere la garanzia, per ritrovare un creditore, in Italia ci vogliono anche 10, 15, 20 anni. Infatti io non capisco, e chiudo su questo la parte che riguarda i mutui ipotecari, cioè si è sempre detto: vabbè, quando tu però il prestito lo dai come mutuo e hai il valore dell'immobile, e di solito le banche italiane sono prudenti, va riconosciuto, non ti danno il 100%, arrivi, se sei bravo, al 60-65% del mutuo. Poi negli anni passati c'era la mano più larga, ma insomma, e quindi hai un'esposizione sul valore dell'immobile abbastanza realistica, cioè il mercato immobiliare adesso non è in estrema sofferenza, si sta ripigliando lentamente, ma perché anche lì dare un tempo di 7 anni quando sappiamo che ci può voler più tempo, e soprattutto il mercato immobiliare ha delle sue ciclicità, c'è un diritto italiano che non agevola, cioè perché è così rischioso l'immobile e devi azzerarlo dopo 7 anni? Ma se sentiamo un banchiere italiano ti dice che non è così rischioso, ed è proprio il motivo per cui ritiene che la norma sia ingiusta. La spiegazione che dà la BCE è trasparenza, per cui noi vogliamo avere un trattamento uniforme e trasparente delle sofferenze, per cui le banche non solo dovranno svalutare appunto obbligatoriamente, azzerare dopo 7 anni e progressivamente, perché non dimentichiamo, non è che per 7 anni non si fa nulla e poi dopo 7 certo. anni si, cioè ogni anno, cioè vale circa 14-15% l'anno, quindi chiede di farlo, ma anche chiede di comunicare al mercato, e questa è un'altra novità importante, perché le regole della BCE, che tra l'altro non sono obbligatorie, è curioso questo, ma se uno non le applica deve spiegare perché, quindi di fatto lo sono, le regole della BCE prevedono che dall'anno prossimo le banche comunichino al mercato la vecchiaia, diciamo, dei propri crediti in sofferenza, e questo non sarà facile, perché significa fare un outing significativo di dati molto sensibili. Staremo a vedere, comunque capiamo anche che siano state un po' colte alla sprovvista le banche. La reazione è stata, lo ricordavamo, quella di Patuelli, dell'ABI, insomma, il mio ottimismo è meno alto di ieri, insomma c'è, non dico panico, ma c'è un po' di sorpresa su questo. Marco, sì, anche perché sempre ieri BCE ha detto che entro marzo 18 arriveranno nuove norme sempre sugli NPL, e l'incertezza è quello che fa impazzire il mercato. E da qui partiamo per commentare rapidamente i mercati e la borsa italiana, e poi arriviamo al rapporto OCSE, positivo sull'occupazione che abbiamo creato, molto negativo su come qualifichiamo la forza lavoro e quello che facciamo dei laureati o diplomati bravi. Adesso vi arriveremo, perché le parole sono anche state molto dure sull'Italia, su come non sappiamo e bistrattiamo i giovani preparati. Comunque andiamo sulla borsa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Soy el fuego que... Allora, il tema che ha appena affrontato Marco Ferrando è anche il tema su cui si è mossa per buona parte la borsa oggi. UbiBanca meno 2%, BPerBanca meno 1,70%, poi qualche altra banca ha recuperato, Banco BPM ha perso solo 0,20%, Intesa San Paolo ha fatto più 0,20%, UniCredit più 0,40%. Bene invece il gruppo Fiat, soprattutto sulla controllante Exor, più 4%, questo dopo... le parole, c'è stato oggi l'Investor Day di Exor, sono state date alcune indicazioni allo studio un buyback, il presidente John Elkann ha detto che le prospettive sono molto forti, ha smentito tutte le voci su interessi di altre società, Fiat Chrysler è una realtà molto positiva e siamo fortemente impegnati anche in quella realtà, e in Fiat Chrysler ci sono persone che hanno tutti i numeri per essere candidati a succedere a Sergio Marchionne, che ha tanti cappelli e continuerà ad essere presidente anche dopo il 2019 e contribuirà al futuro del gruppo. Su questo siamo sul titolo. Bene, poi invece Saipem più 2,70, Atlantia più 2%, Snam più 1,70, Enel più 1,60%, Eni più 0,90%, su questo appunto bene tutto il settore energetico. Telecom Italia più 1%, anche qui dopo le dichiarazioni del presidente De Puyfontaine da Capri dal summit di Ernst & Young di cui abbiamo parlato prima, non ho pregiudizi sullo scorporo della rete, però ha detto una separazione della rete che è e rimane strategica per TIM non è in agenda, poi ha chiarito il portavoce, non c'è nulla di nuovo, sono disponibile, ha detto De Puyfontaine, a incontrare il governo, vogliamo l'obiettivo di Vivendi è trovare la migliore decisione per TIM e per gli stakeholders, intendo con questo governo, regolatori, clienti e Italia come paese. Nel frattempo segnalo però che la Guardia di Finanza, assieme ai rappresentanti della Gendarmeria di Parigi, il nucleo di polizia volontaria della Guardia di Finanza, ha effettuato delle perquisizioni negli uffici di Vivendi a Parigi nell'ambito delle inchieste della Procura di Milano sulla tentata scalata di Vivendi a Mediaset, per capire appunto come si è mossa. Sapete che l'accusa di Mediaset è che fu fatta saltare a posto l'operazione con Premium per abbassare il valore del titolo Mediaset, nel frattempo si andò a rastrellare per poi scalarla. E quindi la perquisizione della Guardia di Finanza. Ancora altri titoli: Buzzi Unicem più 0,80, Brembo più 0,70, di negativo oltre alle banche Salvatore Ferragamo meno 1,5, Yux Net a Porté meno 1,1, Prismian meno 1, come Case New Holland. Migliori e peggiori: Biancamano più 17, Ambro Mobiliare più 11,30, Brioschi più 8,30, Raiway più 8,20. Peggiori: Gruppo Waste Italia meno 12, Creto Valtellinese meno 10,60, Landi Renzo meno 7 e Fintel Energia Group meno 7,40%. Andiamo sul traffico e poi andiamo a parlare del rapporto OCSE sulla occupazione e formazione nel nostro paese. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. L'Italia ha già adottato rilevanti misure grazie a un ambizioso processo di riforme. Il piano di riforma, la buona scuola, per esempio, il Jobs Act e il piano Industria 4.0. Tutti questi programmi hanno rappresentato tappe fondamentali di questo percorso nell'Italia. Il presente rapporto può contribuire a consolidare tali risultati e migliorare la strategia con la quale le competenze degli italiani sono sviluppate, attivate e utilizzate. Sono tre cose diverse nel mercato di lavoro. Così appunto oggi il segretario generale dell'OCSE, Angel Gurria, sulle riforme messe in campo dall'Italia. Ha ricordato Gurria che questo ha permesso di creare 850.000 posti di lavoro e anche di aumentare i posti a tempo indeterminato. Ripeto, sappiamo che questo dato sta scemando, perché i posti che si creano sono sempre più a tempo determinato. Però Gurria ha aggiunto: occorre favorire un'organizzazione flessibile del lavoro, l'accesso ai servizi dell'infanzia, più asili nido. Aiutano lo sviluppo dei talenti e permettono anche di liberare il lavoro femminile dalle incombenze familiari in questi casi, e quindi di non rinunciare, di non scegliere sempre tra famiglia o lavoro. E poi ha aggiunto: solo il 20% degli italiani tra i 25 e i 34 anni è laureato, rispetto a una media dell'OCSE del 30%. Questo non è colpa del governo, è colpa degli studenti e delle volte anche delle famiglie. Va avanti Gurria, dice: attenzione, gli italiani laureati hanno in media un più basso tasso di competenze in lettura e matematica, 26esimo posto su 29 paesi, ma non solo, quelli che ci sono non vengono utilizzati al meglio, risultano bistrattati, perché l'Italia è l'unico paese del G7 in cui la quota dei lavoratori laureati in posti di con mansioni di routine, dove non sarebbero necessari, è più alta di quella che fa capo ad attività non di routine. E poi questo vale anche per i diplomati, non è che si stia parlando solo dei laureati. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento sul tema il direttore per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali all'OCSE, Stefano Scarpetta. Buonasera. Buonasera a voi. Scarpetta, io non ho capito, ma il suo segretario generale ha atteso a dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, cioè ha detto: bene le riforme che avete fatto, il mercato del lavoro un po' si è mosso, la produttività comunque ristagna nel vostro paese, ma non ci siamo sul fronte della formazione e di come impieghiamo la formazione. Devo dire che poi il ministro Padoan ha detto, insomma, l'elemento più forte per aumentare la crescita economica è riformare il sistema educativo, accumulare capitale umano. Sappiamo che viviamo nella decade perlomeno delle competenze. Cos'è, un colpo al cerchio e alla botte, oppure è la certificazione che, nonostante alcuni progressi, noi di capitale umano parliamo solo per retorica, per riempirci la bocca e per fare magari campagna elettorale? No, credo che i problemi che sono stati sollevati nel nostro rapporto e che lei ha ricordato sono problemi fondamentali, ma sono problemi strutturali. Quello che noi sosteniamo nel nostro rapporto e che ha ricordato anche il segretario generale è che alcune delle riforme che sono state fatte recentemente, il Jobs Act, la buona scuola, l'industria 4.0, sono dei pilastri fondamentali per cercare di rispondere a quelle che sono le problemi strutturali che ha il nostro paese. E bisogna mettere in opera queste riforme e soprattutto andare ad affrontare quelli che sono i nodi cruciali di questo, quello che chiamiamo un equilibrio basso, di competenze basso, cioè c'è una bassa offerta di competenze dal sistema formativo, ma c'è anche uno scarso utilizzo di queste competenze dal mondo delle imprese. Quindi bisogna affrontare, sicuramente rafforzare l'offerta di competenze, renderla più adeguata a quella che sono le necessità della nostra economia, del nostro mercato del lavoro, ma lavorare anche attraverso l'industria 4.0 per stimolare una domanda di competenze più elevate. Se no, non si creano gli incentivi ai giovani anche a investire in migliori competenze di più alto livello. Allora, Scarpetta, se io le dicessi, le elencassi questi tre aspetti: responsabilità delle famiglie e degli studenti, nel senso quando scegli la facoltà, quando scegli il diploma, quando la famiglia deve dirti ma che senso ha una laurea in lettere se scopriamo che non dico che non vada bene la laurea in lettere, dico semplicemente come fa anche un calcolo con quello che è il mercato del lavoro, oppure il diploma, come lo vuoi frequentare, che tipo di diploma scegli. Responsabilità di famiglie e studenti, perché solo da noi esiste l'istituto del fuoricorso, che secondo me è un'aberrazione. Tu non riesci a fare gli esami, ti do un po' di margine, dopodiché se non riesci a fare gli esami in un certo tempo fuori dall'università, ma che è che stai parcheggiato lì? Ma detto questo, responsabilità di famiglie e studenti, responsabilità del corpo docenti, i baroni all'università che si oppongono, anche perché sono molto presenti in Parlamento i professori universitari, a ogni riforma dell'università italiana a partire dall'abolizione del valore legale del titolo di studio, o responsabilità della politica, diciamo, e del mondo dell'economia, oltre che della politica, nel poi non cercare queste competenze. Lei mi dà un ordine su queste tre responsabilità, primo, secondo e terzo posto? Allora, arrivo alla risposta conclusiva. Secondo me è quello che, di cui c'è bisogno in Italia è veramente di un Marshall Plan per l'occupazione giovanile. Adesso elaboro. C'è una responsabilità da parte delle famiglie e dei giovani, i quali però devono ricevere un giusto orientamento su quali sono le prospettive anche sul mercato del lavoro, anche occupazionali, delle diverse filiere di studio che possono intraprendere. Bisogna anche offrire una formazione articolata. Non tutti possono seriamente concludere il processo formativo universitario. Bisogna rafforzare la filiera tecnico-professionale di qualità, che offra quindi anche competenze che possono permettere di avere un accesso al mercato del lavoro e delle transizioni rapide. La Germania è un paese che ha investito nella formazione duale, il tasso di disoccupazione giovanile in Germania è sotto il 10% e le transizioni dall'apprendistato verso posti di lavoro più stabili è di oltre l'80%. C'è sicuramente la necessità di implementare la buona scuola, tra altre cose formare anche i professori, gli insegnanti. Non è pensabile che un insegnante abbia svolto il suo, diciamo, processo formativo e che poi possa insegnare in maniera efficace durante tutta la sua vita professionale. Quindi una riqualificazione anche degli insegnanti è assolutamente fondamentale. E c'è un problema della politica perché, ripeto, le riforme recenti sono delle riforme importanti, c'è un bisogno di continuità. Stiamo parlando di cambiamenti nei comportamenti, in scelte importanti che vengono fatte dagli studenti e dalle famiglie, che vengono fatte dalle imprese, che vengono fatte anche dagli insegnanti. Per tutti questi cambiamenti c'è bisogno di un senso di continuità, c'è bisogno di una rotta verso la quale stiamo andando. Per quello parlavo di un Marshall Plan, cioè di un'azione complessiva che tocchi vari aspetti in maniera coerente. E una cosa positiva, se vuole, del lavoro che abbiamo fatto all'OCSE e che abbiamo messo intorno a un tavolo tutti i vari attori. Era un tavolo interministeriale in cui c'erano i vari ministeri che in diverse misure sono tutti responsabili. Ma al primo posto cosa mi mette? Ho 10 secondi scarsi. A mio avviso aiutare i giovani nella scelta della filiera di studio, rinforzare la formazione tecnico-professionale, l'alternanza scuola-lavoro. Okay. Questo è un punto fondamentale. E l'alternanza scuola-lavoro purtroppo la vediamo partire con molta difficoltà, essere applicata con molta difficoltà. Nel ringraziare appunto il direttore per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell'OCSE, Stefano Scarpetta, dico anche, chiarisco sui fuoricorso, ovviamente non mi riferivo agli studenti lavoratori che hanno tutto il mio rispetto, mi riferivo a chi usa l'università come un parcheggio e ci mette anni e anni e anni a fare un normale corso di laurea, breve o non breve, quello che è. Grazie a tutti, noi ci risentiamo domani con un'altra puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata. Radio 24.